hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Volvimos y volvimos. Ahora sí que nos enredamos con lo que vamos a... Vamos a enredar hasta idiomáticamente, mirá. Exacto. Así que te vamos a pedir un poquito de paciencia, porque esta entrevista la hicimos a un italiano, hablando cada uno en su idioma. Creo que más o menos nos entendimos. Y después, gracias a Bruno Paglialunga, que es la pareja de Emilia Cejas, compañera de la radio, y a Emilia Cejas, que nos hicieron entre ambos la traducción, vamos a poder poner esto en el aire ahora. ¿Qué fue lo que sucedió? Por allá por fines de junio se comunicó con la RNMA Claudia Nardín. Claudia Nardín, que es la productora de un programa que se llama Le Iene, o sea, La Hiena, que es el CQC italiano, efectivamente. Estaban aquí buscando alguna información más, sumar a la que ya tenían, que, bueno, nosotros nos enganchamos, no sé si alguien más en la red les contestó, pero nosotros por lo menos de la colectiva sí nos enganchamos, gestionamos ahí algún contacto, les pasamos alguno de los datos de que uno puede contar con estas cosas. Y allí quedó, ellos vinieron a hacer para la RAI, entonces, para Le Iene, un documental sobre glifosato. Allí lo hicieron, lo presentaron, ahora hace un par de semanas, en la RAI, lo presentaron en su programa, unos 2,5 millones de personas estuvieron allí, es lo que ellos calculan, ¿no? Sí. Con lo estuvieron viendo. Es un documental de 25 minutos. Vamos a ser claro con esto. Para los que estamos de este lado, aquí en Argentina, en Uruguay, que transitamos por lo menos desde hace 10 años la lucha contra los herbicidas, la lucha puntual contra el glifosato y contra este modelo de agrotóxicos, el aporte es mínimo, digamos. Claro. No hay un aporte porque cuenta lo que ya conocemos y también tampoco con toda la red que se generó con todo este tema, todas las bifurcaciones que han tenido. Exacto. No las pueden en el tiempo que vinieron a hacer este documental tener. Eso justamente nos parece que ha sido el punto débil para nosotros del documental, que es muy escasa la visibilización de las resistencias. Es decir, ellos focalizan, le preguntamos, y esto quedó fuera de lo que vamos a transmitir ahora, pero le preguntamos y nos contestaron que decidieron englobar las resistencias en las Madre de Ituzaingó. Nosotros creemos que, por supuesto, la lucha de las Madre de Ituzaingó es importantísima, pero hay otras resistencias, que sería importante no mostrar a los pueblos inermes ante las fumigaciones. No obstante, pensándolo desde un medio masivo, estamos hablando de 2,5 millones de personas que lo miraron, con un impacto en Italia y por lo tanto también en Europa. Y tal como lo dice con quien hablamos, que es Gaetano Pecoraro, no sabía nada, no sabíamos nada de lo que estaba ocurriendo en Argentina. Nos parece que desde ese lugar el documental tiene un impacto muy importante. Y por supuesto, nosotros se lo agradecimos a Gaetano. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada con Gaetano, justamente Gaetano Pecoraro. Esta es la primera parte de lo que hablamos con él. Este es un trabajo que... trabajo en equipo que hemos hecho Claudia Nardin e Alessandro, Casati, que es nuestro Casati, que es nuestro director, y yo. ¿Cómo ha nacido? Acá hay una radio, de un ambientalista que se impegna molto su questo tipo di questioni, que se ocupa mucho de este tipo de problemas. Era l'estate scorsa, el verano pasado avevamo visto questo reportage, vimos el reportaje fotográfico de Pablo Ernesto Piovano. Sí. Eravamo rimasti molto scioccati y quedamos muy conmovidos. Ahora, le immagini chiaramente sono forti. Las imágenes son claramente fuertes, traducirlas in un video reportage no fue simple. Non è una cosa semplice. Però diciamo il punto di inizio è stato quello. Diciamo che il punto di inizio è stato ese. Contatti perché abbiamo pensato che fosse una materia molto importante di cui si parlava troppo poco. Da lì era una materia importante, direi che si parlava poco. Professore Medardo, empezamos a tener contacto con le madri di Tuzaingó, con el profesor Medardo Ávila y con las madres de Tuzaingó. Di preparazione, perché appunto dovevamo attraversare il continente prima di attraversarlo. Nació así un trabajo bastante largo di preparazione, teníamos que atravesar el continente. Ci serviva. Teníamos que estar seguros de encontrar aquello que necesitábamos. Poi diciamo che ci sono tante altre cose per cui abbiamo pensato che ne valesse la pena di raccontare. Después pensamos que había tantas otras cosas que valían la pena conocer para contar esta historia. In particolar modo in Italia. Soprattutto qui consumiamo. Particularmente in Italia. Sappiamo però consumimos mucho, pero no sabemos de dónde viene. Quello che consumiamo. Soprattutto no sabemos qué cosas hay detrás. Cosa c'è dietro? Allora, l'Italia è un paese che, come l'Europa, è un paese che importa molto dall'Argentina. L'Italia è un paese che importa molto dall'Argentina. Da noi nessuno sapeva quello che stava accadendo. Les aseguro da voi. Che ninguno de nosotros sabía qué les estaba ocurriendo a ustedes. La cosa più importante che ci ha stimolato è stata questa. Por eso lo más importante che nos stimulò fue esto. Noi europei sappiamo all'interno di questo sistema. Sappiamo come funziona questo sistema globale. Nosotros italianos sabemos qué está ocurriendo en el interior de este sistema global. Per i nostri animali, per le industrie che lavorano. Sabemos qué está detrás de la adquisición de la soja para nuestros animales. O ancora, todavía peor. En ciertos casos, anche que sappiamo che dietro il piatto nazionale. En ciertos casos sabemos que detrás del plato nacional, la pasta. Si può nascondere un'economia. Puede esconderse. Non sempre una economia che non sempre già la si può vedere, è trasparente e sana. Da subito quando vai in un supermercato. Già si può vedere quando vas al supermercato. Abbiamo fatto diversi servizi per chiedere. Nel nostro programma abbiamo fatto diversi servizi commerciabili. Per facilitare che in tutti i prodotti commerciali si può avere l'origine del prodotto nell'etichetta. Nell'etichetta dall'origine del prodotto, l'origine della materia che si usa per il prodotto. Perché materia si usa per fare ese prodotto? In nostre pasta c'è l'obbligo di scrivere chi importa farina. No hay obligación de escribir quién importa harinas de la Argentina, de Canadá, de Stati Uniti. O de Estados Unidos. E questa è una lotta che noi abbiamo fatto e che stiamo facendo. Questo perché? Perché se io so. Porque si yo sé. La farina che sto comprando. Che la harina che sto comprando. Da desarrollo a un sistema que può in qualsiasi maniera, in qualsiasi que de alguna manera forma, da dare sufrimiento a una población. Allora io quantomeno so di cosa so questa cosa e so come poter comportarmi e so come se sto e sé come poter comportarmi. È un'educazione al consumo, no? Totalmente. Sì, sì. Sinceramente nessuno qui sapeva quello che sta accadendo oggi in Argentina. Sinceramente ninguno aquí sabía qué está ocurriendo hoy en la Argentina. Bueno, le preguntamos cómo lo tomó la audiencia, qué respuesta tuvo de la audiencia. Comenzó con eso, pero nos abrió un panorama de lo que ocurre en Italia y en Europa. Sí. Nos abrió un panorama que él califica de guerra. Cuando lo habíamos transmitido ha avuto un gran cuando transmitimos el informe sui social network hubo un gran suceso tanto en las redes sociales habló mucho per cui diciamo siamo soddisfatti però per eso estamos muy satisfechos. La cosa interessante è questa. Pero la cosa más importante es que en questo momento, no, al di là della situazione argentina, cioè la vera e propria más allá de la situación argentina mondiale rispetto ai pesticidi e agli erbicidi in particolare. Se da una verdadera guerra mondiale rispetto ai pesticidi e ai erbicidi in particolare, soprattutto in Europa. Quando lo IARC ha dichiarato ha classificato il glifosato come potenzialmente cancerogeno, ha classificato il glifosato come potenzialmente cancerogeno. La guerra. Ha desencadenato una verdadera guerra. Noi adesso stiamo facendo un servizio che andrà in onda domani. Por eso estamos preparando un informe que estará disponible mañana. Tutti i vostri telespettatori, che radio spettatori che sono tanti. Invito a andare a la mia pagina Facebook domani. A entrare alla mia pagina Facebook mañana. Proseguo dell'inchiesta che però riguarda l'Europa, dove incontreranno la continuazione della inchiesta che si riferisce a Europa e in particolare all'Italia sui pesticidi. Contaremo lo che si riferisce a questa guerra dei pesticidi. C'è un'altra istituzione che si chiama EFSA. Por una parte está IARC y por otra hay la institución que se llama EFSA, de la salubridad de cibi en Europa, que labora per conto de la Comisión Europea. Que es un ente que se dedica a la seguridad de los alimentos en Europa, que trabaja para la Comisión Europea, es decir, para un órgano político. O sea, que ha sido la primera vez degli autorevoli dottori, professori, seguro notables doctores y profesores que están estudiando el glifosato. Que IARC clasifica potenzialmente cancerogeno como potencialmente cancerígena y que por el otro lado OMS, esto mismo es desmentido por la propia OMS, Organización Mundial de la Salud. Questo sulla base di un altro consulto da parte di questo EFSA. Esto se dio sobre la base de la consulta por parte de EFSA. Probabilmente cancerogeno. La cual dice que el glifosato no es potencialmente cancerógeno. La comunidad científica, tutti quanti ci hanno detto che è la prima volta che succede una roba del genere. Nosotros hemos consultado a la comunidad científica y han dicho que es la primera vez que ocurre una cosa de este tipo. Poi è sempre divenuta cancerogena la stragrande maggior parte. Quando la IARC ha detto che è una sostanza potenzialmente cancerigena, si è convertito in cancerigena. È chiaro che c'è una lotta. Che significa questo in realtà? La lotta da che in questo momento è chiaro che è una lucha. Si sta trasformando in un campo politico. Questo è molto grave. Un campo scientifico che talvez si sta trasformando hacia un campo politico. Questo è molto grave. La scienza è scienza. La scienza non può essere politica. La scienza è scienza. È un concetto che non lo compartiamo. Acá. Nosotros creiamo che sempre la scienza è politica e sempre toma partito. Sono un po' ottimista, nel senso che sono un po' ottimista. In passato è successo in Europa che delle scelte dello IARC. Nel senso che ha passato questo in Europa desde lo planteado por IARC, che fu molto importante. In maniera molto forte. Después, cambiato han cambiato de manera muy fuerte los hábitos de las personas en grandes masas. In grandi masse. Cioè, penso da noi lo IARC ha detto che è potenzialmente cancerogeno. Pero por ejemplo IARC rossa, ha dicho que las carnes rojas son altamente cancerígenas. Las carnes rojas son las más consumidas en nuestro país. Ahora, es esta cosa qua, digamos que viene recepita, en el senso. Esta idea ha sido resistida. El discurso aquí, appunto, quindi yo creo que questo passaggio. Penso che il discorso sta in questo passaggio, almeno qui da noi in Europa. Della scienza e della politica non è sempre comprendito, almeno qui in Europa. Comunque, che il fatto importante è che al di là di non voglio sembrare, come si dice, non voglio sembrare dietrologo, come si dice dietrologo in argentino. Una teoria cospirativa. Dietrologo, cospirazionista. Cospirazionista. Cioè, il discorso è un altro. Se c'è un dibattito, il punto è questo. Il discorso è altro. Se hai un dibattito scientifico sulla sostanza, no? In cui c'è qualcuno che dice che fa male, qualcuno che dice che fa bene, in questo lasso di tempo, in questa fase, ci dovrebbe essere il sacrosanto diritto del principio di precauzione. Se alguien me dice che sta male e altro me dice che sta bene, in ese lapso di tempo, in questa fase, dovrebbe avere il sacrosanto diritto del principio di precauzione. Non viene in Europa questo è un diritto fondamentale. Il prossimo servizio sarà su questo. Perché in questo caso non si rispetta? Per questo il prossimo programma sarà sobre esto. No, dicevo che come in Argentina, también in Italia está un problema con el herbicida, con el pesticida. Claro. Porque como en Argentina, también en Italia hay problemas con los pesticidas. Sí. Por ejemplo, el fiume più lungo de Italia, que se llama el fiume El río po, más largo de Italia, bellissimo posto, el Po, in questo bellissimo fiume, lugar. Sono state trovate contaminazioni da en este río centinaia e centinaia di volte superiore. En este río se ha encontrado contaminación con glifosato en centenares muy superior al límite por ley. Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular.